Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con il regista Michele Tennezza per presentare il suo film Il mio corpo, on demand da venerdì 26 febbraio 2021. Michele, ben trovato. Grazie per l'invito. Ci presenti questo lavoro? Sono felicissimo comunque che questo film possa uscire in Italia. Il terzo mio film è il primo film che ha ricevuto comunque un consenso abbastanza largo a livello internazionale, dunque il primo film che è distribuito, ecco, in realtà. E dunque il terzo film che giro in Sicilia. Raccontiamo brevemente la trama per chi ci ascolta. Io ho seguito due destini, dunque due personaggi principali che vivono nello stesso territorio, dunque un ragazzino, Oscar, che fa il rigattiere con suo padre, e un migrante, Stanley, nigeriano, che cerca di sopravvivere appunto nella stessa regione in cui vive Oscar, all'interno della Sicilia. Questi due destini non sono accomunati da qualcosa di evidente, a parte il sentimento comune di vivere una vita decisa da altri. Dunque nel film cerco un po' di raccontare la voglia che c'è sia in Oscar che di Stanley un po' di fuggire da un destino già scritto, ecco. Com'è nata l'idea? Sono quasi 8 anni, sono 3 film da 8 anni di che lavoro in Sicilia e che mi occupo di questi temi. In questi anni ho sempre cercato di raccontare dei microcosmi, delle realtà nascoste, ecco, diciamo, alla più parte delle persone, dunque ho cercato un po' di entrare in questi universi, ecco. Per me la Sicilia è sempre stata un po' una sorta di specchio anche dell'Europa. Ovviamente la mia idea non è quella di raccontare una Sicilia povera o degradata, al contrario. Infatti nel film non si cita mai dove siamo, perché appunto sono veramente realtà legate a un certo senso di abbandono, e appunto da parte dello Stato e in questo caso anche dell'Unione Europea. Dunque in realtà sono storie che paradossalmente parlano a tutti. Infatti quando ho presentato il film anche all'estero, c'è chi mi chiedeva se l'avevo girato in Nord Africa, c'è chi mi diceva l'avevo filmato nel sud della Francia, e dunque sono realtà che parlano a tutti. E in questa Sicilia, diciamo, ho trovato questa sorta di catalizzatore per poter un po' raccontare queste realtà. Certo, non semplici, ma vere. Sì, l'impressione è, vedendo questo entroterra siculo, di degrado ambientale dovuto all'uomo e di condizioni di anche povertà delle due storie che si incrociano. Sì, certo. Ho deciso di girarlo in una zona che è particolarmente isolata e direi abbandonata dalle autorità. Infatti ho deciso di affiancare Oscar a Stanley perché in quella zona c'è il più grande centro di migranti d'accoglienza d'Europa, e la ragione per il quale si trova in quel posto è perché si trova effettivamente lontano un po' da tutto, sia dalle città principali come Catania, ma più che altro lontano dagli occhi, e ho avuto un po' questa impressione. Alla stessa maniera anche le famiglie un po' come Oscar sono delle realtà che si cerca di non vedere, no? E dunque ho cercato un po' di raccontare queste due realtà completamente all'opposto ma paradossalmente comuni, ecco. Direi che sono quasi delle storie verghiane, no? Come spesso mi dicono, no? Sembra quasi di vedere le novelle un po' di Verga tradotte un po' in film, e di fatto sì, mi sono ispirato un po' anche a quella letteratura per raccontare queste storie. Com'è stato il rapporto con gli interpreti? Ovviamente il film è un documentario, ma è anche allo stesso tempo una finzione, perché abbiamo comunque rimesso in situazione delle sequenze e il film si è fatto un po' insieme anche a loro, ovviamente, no? Il lavoro che è stato fatto è stato di preparazione, è stato quello, diciamo, la parte più importante e fondamentale del film, perché io dovevo comunque entrare nella loro quotidianità e avere la loro fiducia per poter poi riuscire a catturare dei momenti intimi, direi, come abbiamo fatto. Dunque è stato un lavoro che è durato quasi un anno solo di preparazione, e poi anche con l'equipe tecnica con cui abbiamo lavorato abbiamo fatto lo stesso lavoro che è durato quasi un mese con loro, senza girare ma veramente passando tanto tempo con i protagonisti e in un certo senso diventare anche noi parte di quelle due realtà. Come hai incrociato queste due storie e come hai deciso poi di metterle insieme? È stato durante le riprese che abbiamo deciso di farli incontrare, no? Di creare la sequenza dell'incontro, no? Perché in realtà l'idea iniziale del film era raccontare questi due destini che erano vicini, diciamo, geograficamente, ma che non si incrociavano mai, no? E poi durante gli ultimi giorni di riprese ci siamo detti, ma proviamo a farli incontrare. È stata una sorta di esperimento che volevamo fare, no? Immaginando che magari quell'incontro avesse potuto dare vita a una terza parte del film, no? Dunque l'incontro in realtà non eravamo neanche sicuri di metterlo nel montaggio finale, no? E invece quando abbiamo, utilizzando i mezzi a nostra disposizione che sono quelli del cinema, insomma, abbiamo realizzato questo incontro completamente di fiction, no? E la cosa divertente è che poi, cioè, tutti i nostri fantasmi che ci eravamo fatto sul seguito non si sono prodotti, nel senso che una volta che abbiamo fatto questo incontro dove si toccano di fatto queste due storie, poi loro non avevano nulla da dirsi, perché nella realtà, anche se abitano vicini, sono due universi completamente lontani che non si sarebbero mai incontrati se non avessimo fatto incontrare noi. E la cosa divertente è che qui la realtà supera sempre la finzione, no? Mentre noi discutevamo, Oscar si è addormentato sul letto e Stanley era seduto accanto al letto dove Oscar dormiva. E mentre noi discutevamo per un'ora circa, ma cosa facciamo, cosa non facciamo, alla fine guardando all'interno della stanza abbiamo visto questa immagine e abbiamo detto, ecco, questa è la fine del film e l'hanno decisa loro. E dunque, di fatto, quella è l'ultima cosa che abbiamo girato, veramente la sequenza quando Oscar dorme e Stanley sta accanto, e l'ultima inquadratura che abbiamo fatto del film. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? C'è una pagina Facebook del film, Il mio corpo movie, alla stessa pagina c'è anche una pagina su Instagram e ilmiocorpo.com è il sito internet del film. Poi anche sul sito di cinemaitaliano.it, che è più aggiornato probabilmente del sito del film, ci sono tutti i festival e anche le date dell'uscita italiana. Il mio corpo on demand da venerdì 26 febbraio 2021, un saluto e un ringraziamento al regista Michele Pennetta. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e una buona giornata. Con Ilaria Freccia, regista del documentario La rivoluzione siamo noi, Arte in Italia 1967-1977, online da gennaio 2021. Ilaria, ben trovata. Grazie, buongiorno o buonasera, va bene. Come presenteresti questo tuo lavoro? Come un viaggio attraverso l'Italia di quegli anni, quindi un decennio di arte italiana, ma non soltanto di arte italiana, anche diciamo un quadro di quello che accadeva a livello politico, nelle strade e nelle piazze, quindi soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni degli studenti, degli operai e del movimento femminista di quegli anni. Diciamo che quello che accadeva fuori nelle strade riflette un po' in un certo senso quello che accadeva all'interno degli studi degli artisti, che in quegli anni hanno rivoluzionato completamente i linguaggi dell'arte, facendo cose che in Italia non si facevano, ma che in qualche modo nel resto del mondo poi ci hanno guardato, soprattutto l'uso dello spazio, no? Finisce l'idea della galleria d'arte tradizionale con i quadri appesi al muro, lo spazio diventa uno spazio per delle performance, per delle opere che a volte addirittura sono cavalli vivi, esseri umani, oggetti particolari, oggetti quotidiani, cioè cambia completamente l'idea dell'arte. Quindi insomma questo decennio è un decennio glorioso per l'Italia. Come è partito il progetto? Da un'idea di Ludovico Fratesi, critico d'arte e storico dell'arte, che mi ha detto, dai, facciamo un film su questo decennio e su questa generazione che giovanissimi artisti, perché allora diciamo i protagonisti della storia sono tutti molto molto giovani, cioè vanno dai 20 ai 27-28 anni, e mi diceva raccontiamo questo decennio, e con la verità mi spaventava abbastanza l'idea, perché raccontare un decennio con tutti questi artisti, che poi erano parecchi, era davvero una sfida, cioè era molto difficile riuscire a fare una narrazione, cioè dare una narrazione cinematografica e anche in qualche modo drammatica, insomma, e non creando come un catalogo, no? Come se ci fosse, c'era questo, poi c'era questo, poi c'era quello. Quindi trovare questo modo di narrare tutto questo decennio è stata la sfida principale, e questa idea del viaggio che ti dicevo prima è sostanzialmente proprio l'idea poi che guida tutto il documentario, c'è un po' la spina dorsale del documentario. Infatti noi partiamo da Torino, dove nasce l'arte povera, per passare attraverso Milano e Roma, dove ci sono state delle mostre molto importanti in quegli anni, fino ad arrivare a Napoli, che era la patria della performance, che ha visto venire artisti internazionali da tutto il mondo a fare delle cose che in altri luoghi non si facevano perché erano troppo trasgressive. Quindi parliamo di Marina Abramovic, Herman Nietzsche, Andy Warhol, Joseph Beuys e molti altri. La motivazione principale è stata questa, cioè cercare di raccontare un decennio attraverso però una narrazione anche di intrattenimento, diciamo, che non fosse soltanto una narrazione storica o teorica, no? Ma che passasse attraverso quelli che erano le persone, i personaggi che hanno vissuto quegli anni. Fortunatamente esistono parecchi materiali filmati di quelle esperienze. Fortunatamente sì, ti dico la verità che all'inizio veramente eravamo un po' terrorizzati perché abbiamo detto Dio, chissà se troveremo dei filmati, perché sapevamo di avere le fotografie meravigliose peraltro di Paolo Mussazzartò, Claudia Abbate a Roma e altri come Pellion, Giorgio Colombo eccetera, cioè sapevamo di avere questi archivi fotografici perché questi fotografi in quegli anni che erano contemporanei degli artisti hanno fotografato le opere d'arte ma non semplicemente l'opera appesa al muro, anche l'azione, no? Anche la preparazione, eccetera. Quindi c'era una grossa documentazione fotografica. Per quanto riguarda i filmati, invece, abbiamo fatto un lavoro più capillare attraverso gli archivi privati, gli archivi dei musei, la RAI, moltissimo, ovviamente anche Luce che l'ha prodotto, e quindi insomma siamo stati fortunati perché poi non ce l'aspettavamo e abbiamo trovato veramente delle cose abbastanza speciali, no? Perché poi allora si girava in Super 8, in 16 mm, quindi c'è una qualità pazzesca delle immagini, sì. Molto bella. L'Italia in quel decennio è stata un'avanguardia a livello internazionale, anche la stessa città di Roma. Secondo te, per quello che hai avuto modo di vedere, questo è dovuto anche al parallelo esplodere di movimenti sociali, politici, a partire dal 68 e per tutto il decennio? Ovviamente era un periodo molto speciale e quindi i movimenti sia politici che artistici andavano di pari passo, ma noi parliamo di arti visive, ma ovviamente allora c'era anche il cinema, c'era la letteratura, la poesia, quindi era un momento molto speciale, molto vivace. Sicuramente, anche se uno dei protagonisti, Tucci Russo, durante un'intervista spiega molto chiaramente, no, che il fatto che gli studenti, insomma, quelli che facevano politica in maniera più diretta, criticavano gli artisti dicendo che l'arte è una forma di espressione borghese e quindi c'era una divisione naturale, no, tra chi faceva arte e chi invece faceva politica. Però ovviamente le influenze, quel momento storico, cioè tutti vivevano quella meravigliosa sensazione di poter cambiare le cose e di unità, no, di partecipazione, di condivisione degli ideali, no, delle lotte politiche. Quindi certamente non c'era separazione tra questi mondi, anche se oggi ci appare forse un pochino, no, come se fossero dei mondi separati, però io credo che si percepisse molto chiaramente quello che avveniva sia a livello creativo che a livello politico. L'idea del titolo? Nasce da un'opera di Joseph Beuys che si chiama La rivoluzione siamo noi, che lui ha portato a Napoli nel 1971 ed è un'opera meravigliosa in cui lui praticamente predica, diciamo così, l'idea che ogni essere umano ha un potenziale creativo, che ogni essere umano è un artista e in quanto artista ha un grande potenziale rivoluzionario, perché in sé l'arte è rivoluzionaria. Quindi La rivoluzione siamo noi indica perfettamente questo concetto e ci sembrava che rendesse anche molto bene l'idea di una generazione che ha fatto veramente la rivoluzione nell'arte. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo documentario? Si può vedere su Apple TV, Google Play, Chili, Cecchigori Digital e iTunes. Passerà su My Movie dal 19 marzo per 5 giorni in una rassegna che si chiama La rete degli spettatori. La rivoluzione siamo noi, Arte in Italia 1967-1977, online da gennaio 2021. Un saluto e un ringraziamento alla regista Ilaria Freccia. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Con Lucio Fiorentino, regista del documentario Prenditi cura di me, in streaming. Lucio, ben trovato.